facce limpide, sane, voci invadenti, voci perdenti, laceranti, intriganti. Voci amare, sgradevoli, voci nasali e gutturali, voci dense, sospese, voci ammattite e sognanti, voci terrorizzanti, voci grasse, voci logore, basse, voci sgranate, intristite, consumate, voci distrutte, voci serene, voci domestiche, chiuse, ottuse, voci assolute, assolute, assolute, gnaccole, voci avverse, voci perverse, voci storiche, diverse, assolute, voci barocche, voci agghindate, chiacchissime, distinte, discinte, evidenti, analogiche, voci illogiche, voci circostanziate, misurate, ossequienti, voci perplesse, voci sconvolte, voci infossidate, voci uccellina, rudi, voci distinte, voci intense, voci abitate come parole, voci amorevoli, sensuali, voci intelligenti, voci abitate come parole, voci certe, voci rudi, fugaci, voci sante, migliori, le voci indurite, voci attratte dall'orecchio tortuoso di Dioniso, voci afferenti, voci assenti, piccole, violente, voci trasgressive e disparate, rotte, voci attratte dall'orecchio tortuoso di Dioniso, fantasmagoriche, voci sbagliate, voci superanti, voci impaurite, astrali, pazienti, voci voci lisce, rettiline, scoperte, voci favolose, voci operose, voci elastiche, ciocche, voci plastiche, voci voluminose, scoperte, irruenti, spigolose, voci ancorate, voci deserte, voci emancipate, voci sorde, pervasi, voci bizzarre, cotte, voci fatte, favolose, sorde, voci voci confessate nel grigio di un inverno, voci confessate spavalciate nel grigio di un inverno, nel grigio di un inverno, atroci eccezioni, che si susseguono vorticose migliaia in istante, voci che si susseguono vorticose migliaia in istante, voci che si susseguono a migliaia vorticose in istante, voce dominante, voce stranamente opprimente, voci accresciute, voci amplificate, che si susseguono a migliaia vorticose compromittenti, voce prensile, voce generosa, voce rosa, benedette, benedette, benedette, voci benedette, voci rampanti, sonanti, sonanti, sonanti, sonanti, brillanti, cristalline, voci armicine, aggressive, trasparenti, voci ariose, fresche, frizzanti, voci aggressive, centrifughe, affilate, taglienti, voci soffnanti, voci ermettine, voci ermettine,